l'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Capparrucci. Da Lucia Capparrucci, buongiorno a tutti e benvenuti all'Eco del Silenzio. E buonasera per quelli che ci ascoltano in replica. Prima di iniziare quella che sarà l'ultima trasmissione per questa stagione, vorrei approfittare per ringraziare Radio Libriamoci Web per l'assoluta libertà che mi ha concesso anche quest'anno e nella fattispecie Dario Albertini per tutti i 1000 aiuti tecnici e psicologici, direi. Ciò premesso, passiamo subito alle notizie. Da www.vita.it. Crisi, il DDL bipartisan che salva il cibo, del 4 ottobre 2011. Obiettivo del provvedimento è quello di snellire le procedure e rendere gli alimenti disponibili per i poveri. È stato illustrato da Luigi Grillo e Angelo Maria Cicolani, PDL, Luigi Vimercati, PD, e da Monsignore Enrico Feroci, presidente della Caritas Diocesana di Roma, e il direttore generale di Confcommercio, Francesco Rivolta. Il DDL bipartisan per salvare dalle discariche il cibo invenduto di supermercati, ristoranti e mense aziendali e renderlo disponibile per i nuovi poveri. A fronte del dato impressionante di 10 milioni di tonnellate di cibo per un controvalore di 37 miliardi di euro gettate in discarica ogni anno e che potrebbero sfamare l'equivalente della popolazione spagnola, il provvedimento punta a semplificare le procedure burocratiche per la cessione del cibo ai bisognosi. Speriamo, ha detto Grillo, che sia di buon auspicio che questo DDL venga presentato oggi, giorno di San Francesco, allo scopo di ovviare ai problemi rimasti insoluti dalla legge 155 del 2003, cosiddetta del buon samaritano, per il recupero dei cibi avanzati da mense e ristoranti. Il punto centrale della proposta è quello sull'esonero di responsabilità, salvo ovviamente i casi di dolo o colpa grave per le onlus che operano nel settore. Monsignor Feroci ha salutato la misura come un segno di civiltà e di attenzione verso gli ultimi. Vimercati ha sottolineato l'altissima valenza morale del provvedimento, che ha detto invece Rivolta recupera il sentimento del solidarismo diffuso che può arrivare dove il welfare pubblico non ce la fa. Cicolani ha ricordato che la solidarietà è decisiva per superare le difficoltà e mantenere un accettabile livello di coesione sociale. Cercheremo di far sì, ha concluso Grillo, che questo spreco cessi e proporremo una tempistica accelerata per l'esame in commissione. L'eco del silenzio. Da www.vita.it. Cina, l'esercito dei microblogger. Di Ottavia Spaggiari, del 29 giugno 2012. La voce della società civile che cambia il paese a colpi di click. È un cambiamento epocale quello che sta segnando lo scenario socioculturale cinese. Mentre si è conclusa venerdì la missione della navicella spaziale Shenzhou 9, che ha visto protagonista la prima donna del paese nello spazio, sulla Terra non accenna a diminuire l'impegno della società civile, che si organizza in rete per trovare risposte a problemi concreti. Rischiano la prigione, la tortura o addirittura la morte. Eppure, il governo non riesce a fermare l'attivismo dei blogger e microblogger cinesi. Tanto che, secondo il Washington Post, saranno proprio loro a giocare un ruolo chiave il prossimo autunno, dopo che il 28° congresso nazionale del Partito Comunista avrà selezionato i 9 uomini che assumeranno la leadership del paese. Sarà allora che i rappresentanti della società civile dovranno far valere la propria forza di mobilitazione e promuovere per una virata democratica della seconda potenza mondiale. Che le rigide barricate della censura avessero lentamente cominciato a scricchiolare si presagiva da tempo. Un segnale importante si è avuto all'inizio di giugno, quando, nel giorno dell'innominabile anniversario della strage di Piazza Tiananmen, gli indici della borsa di Shanghai, per una misteriosa coincidenza, avevano ricordato più volte durante la giornata proprio la data del massacro, il 4 giugno 1989. L'indice si era aperto a quota 23.046,98, che letto al contrario ricordava il 23° anniversario del 4-6-89, scendendo poi a 64,89 punti, ripetendo quindi la stessa data all'americana. Nonostante le azioni di sospensione e chiusura di molti blog e siti web, portate avanti dal governo nel tentativo di mettere a tacere le voci della società civile, dopo la discussa espulsione del leader Bo Xilai dal Politburo, non solo l'esercito degli attivisti online non è stato decimato, ma continua a crescere. Percepiti dal governo come pericolosi sovversivi, in realtà i blogger impegnati nella costruzione di una nuova Cina sono spesso molto lontani da posizioni rivoluzionarie. Molti di loro sono figli di funzionari del partito e non rinunciano a definirsi dei veri patrioti. Wang Xiaoshan, celebre giornalista e microblogger, ha lanciato una campagna di boicottaggio nei confronti di Meng Niu, un colosso dell'industria alimentare cinese, coinvolta in uno scandalo per l'utilizzo di sostanze tossiche nella produzione. «Amo il mio paese», ha recentemente dichiarato Xiaoshan, che dopo un periodo trascorso tra Hong Kong e Macao ha deciso di ritornare nel paese d'origine, dove però rischia l'arresto. Sempre uno scandalo alimentare ha spinto all'azione un altro famoso attivista, Wu Heng, studente della Fudan University di Shanghai, dopo aver scoperto che in un locale vicino al campus universitario la carne di maiale veniva trattata con un additivo tossico, per farla sembrare manzo, Heng ha sviluppato un sito web che informa i cittadini sulla sicurezza dei prodotti alimentari. Figlio di un funzionario di partito, a differenza di Xiaoshan, Heng si definisce un combattente moderato e il suo progetto sembra essere persino piaciuto al Dipartimento di Sicurezza Alimentare di Shanghai. Tra i servizi di impegno civile online più popolari vi è il microblog lanciato dal sociologo e attivista per i diritti umani Yu Yangrong, dove gli utenti possono scattare fotografie e geotaggare i bambini rapiti e costretti a chiedere l'elemosina per strada, così da aiutarne il riconoscimento e il ritrovamento da parte delle famiglie. Seguito da oltre 80.000 utenti attivi, il blog ha già contribuito a salvare decine di minori ed è la prova della vivacità della società civile online. Secondo il China Internet Network Information Center, sono 500 milioni i cittadini che hanno accesso alla rete, di cui 250 milioni posseggono un account microblogging, simile a Twitter e chiamato Weibo. Nonostante la lunga mano della censura riesca a raggiungere anche questi canali, il controllo governativo sul mare magnum del microblogging cinese non è semplice come quello della vecchia televisione di Stato. Proprio come Twitter, i contenuti dei Weibo sono generati dagli utenti e funzionano su 140 caratteri, anche se al sistema degli ideogrammi, 140 caratteri sono abbastanza per scrivere molte più cose e dare delle vere e proprie notizie. L'eco del silenzio. Silenzio. Da www.vita.it. Save the Children. Gravidanza, prima causa di morte per le teenager. Del 27 giugno 2012. Rapporto dell'organizzazione sulla mortalità legata alle gravidanze precoci nei paesi in via di sviluppo. Anche la pianificazione familiare è uno strumento di lotta alla mortalità infantile e materna, soprattutto se si considera che la gravidanza è la principale causa di morte al mondo per le teenagers. Un milione di loro ogni anno muore, subisce danni permanenti, si ammala o ha gravi infezioni a causa della gravidanza e del parto. Sono questi alcuni degli allarmanti dati lanciati oggi da Save the Children nel rapporto Il diritto di ogni donna, la pianificazione familiare come strumento di lotta alla mortalità infantile, in cui si evidenzia che una ragazza con meno di 15 anni rischia fino a 5 volte di più di perdere la vita durante la gravidanza rispetto a una ventenne. A livello globale, una ragazza su 5 partorisce prima di aver compiuto 18 anni. Anche bambini nati da madri troppo giovani sono a rischio. Sono circa 1 milione i bambini figli di adolescenti che muoiono ogni anno. Ogni anno, 10 milioni di ragazzine sono date in moglie prima di compiere 18 anni. Parliamo di circa 25.000 al giorno. Ma se in alcuni paesi il matrimonio precoce e la conseguente gravidanza in tenera età sono normali, non è normale per il loro fisico ancora immaturo dare alla luce un figlio. Il rischio di mortalità materna per una ragazzina di 15 anni è di 1 su 150 nei paesi in via di sviluppo, contro un rapporto di 1 su 3.800 nei paesi ricchi. Non solo. Come evidenzia il rapporto, le giovani mamme sono spesso povere, con una scarsa educazione e vivono nelle aree rurali. La contraccezione non è accessibile e, anche quando lo è, risulta spesso troppo costosa per molte ragazze e donne. Altre hanno preconcetti sull'uso della contraccezione, dovuti spesso a barriere culturali e sociali o a falsi miti sugli effetti collaterali. Secondo un sondaggio condotto a livello nazionale in Nigeria, almeno un terzo delle donne pensa che l'utilizzo di alcuni metodi contraccettivi possa causare infertilità, mentre i dottori in Uganda spesso si scontrano con la convinzione di molte donne secondo le quali utilizzare la moderna contraccezione causi il cancro o terribili malformazioni nei figli che arriveranno dopo. Spesso le gravidanze indesiderate sono frutto di rapporti sessuali forzati, anche in seno alla stessa famiglia, che in alcuni paesi rappresentano in media il 30% e che va dal 24% nelle aree rurali del Perù al 28% in Tanzania. dal 30% delle aree rurali del Bangladesh per arrivare addirittura al 40% nell'Africa meridionale. Nella nota di Save the Children si sottolinea che solo quest'anno nei paesi in via di sviluppo si sono registrati 80 milioni di gravidanze indesiderate o non programmate. Secondo l'ONG, assicurare la contraccezione a livello globale potrebbe prevenire il 30% delle morti materne e il 20% di quelle neonatali nei paesi in via di sviluppo, salvando potenzialmente 649.000 vite all'anno. Maggiori intervalli di tempo tra un parto e l'altro, fino a quello auspicabile di 36 mesi tra parto e successivo concepimento, potrebbe addirittura prevenire la morte di 1.800.000 bambini l'anno che perdono la vita prima di compiere 5 anni, pari a quasi il 25% della mortalità infantile totale. Il problema di bambine che mettono al mondo bambini e muoiono per questo, perché il loro fisico è troppo immaturo per partorire, è un vero e proprio scandalo, commenta Valerio Neri, di Save the Children Italia. Una tragedia senza voce non solo per quelle ragazze che muoiono dando alla luce ai propri figli, ma anche per i bambini stessi, perché un bambino nato da una madre con meno di 18 anni ha il 60% di probabilità in più di morire. Il prossimo 11 luglio, i leader mondiali si riuniranno a Londra per un summit internazionale sulla pianificazione familiare, promosso dal governo inglese e dalla fondazione Bill e Melinda Gates. Save the Children, impegnata in tutto il mondo nella lotta contro la mortalità infantile con la campagna Everyone, chiede loro di impegnarsi attivamente affinché venga aumentata la disponibilità di contraccezione a livello globale e di agire affinché le ragazze e le donne abbiano la possibilità di decidere se e quando avere un figlio e quanti averne. Inoltre, chiede che ogni donna possa avere accesso alla pianificazione familiare, che i diritti delle donne siano sanciti e tutelati dalla legge. Inoltre, chiede che vi siano maggiori investimenti per assicurare l'educazione alle donne, non per aumentare il numero di operatori sanitari. L'articolo 16 del proclama scaturito dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui diritti umani di Teheran nel 1968 stabilisce che la tutela della famiglia e dell'infanzia resta una delle preoccupazioni della comunità internazionale. I genitori hanno il diritto fondamentale di determinare liberamente, in maniera responsabile, il numero dei figli e l'intervallo tra le nascite. Conclude Valerio Neri. La pianificazione familiare nei paesi in via di sviluppo è molto più di una scelta di vita. Da essa dipende la sopravvivenza di milioni di bambini. Senza contare che per ogni euro investito in pianificazione familiare se ne risparmierebbero 4 che altrimenti dovranno essere spesi per curare complicazioni legate alla gravidanza o il parto. Conclude Valerio Neri. L'eco del silenzio. Silenzio. Concludiamo ora con quella che sarà l'ultima notizia di questa stagione. Non è una buona notizia, però credo abbia comunque un qualcosa di positivo in sé. Da www.combonifam.it. Aya, finalmente un'africana. Fatou Bensouda del Ghana è stato eletto procuratore capo della Corte Penale Internazionale che persegue genocidi e crimini di guerra. Il suo obiettivo primario è aiutare donne e bambini vittime di violenza, crimini sessuali e di genere. Del 29 giugno 2012. La Corte Penale Internazionale dell'Aia ha scelto la sua nuova procuratore capo, seconda donna nella storia per la prima volta africana. Si chiama Fatou Bensouda, nata in Ghana e da anni già vice del suo predecessore, Louis Moreno Ocampo. Ha già espresso la volontà di migliorare il lavoro all'interno dell'istituzione, in particolare la qualità e l'efficienza nelle indagini, garantendo giustizia nei confronti delle violenze e crimini sessuali contro i bambini e la violenza di genere. La mia ispirazione e il mio orgoglio si racchiudono nell'aiutare le vittime. Questo è l'obiettivo e al centro della giustizia penale internazionale, ha spiegato lei stessa poco dopo la nomina. Migliorare i rapporti della Corte con il continente africano è un altro degli obiettivi della nuova presidente dell'AIA. Il suo predecessore era accusato di perseguire in particolar modo i leader di molti paesi dell'Africa, tanto che dal 2003 sono aperti ancora i procedimenti penali contro Uganda, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Sudan, Kenya, Libia e Costa d'Avorio. Per Fatou Bensouda, la priorità è dare giustizia alle vittime di questi paesi, soprattutto donne e bambini, e riaprire il dialogo con molte realtà africane. Il primo passo è stato fatto dall'Unione Africana che l'ha invitata a luglio durante il proprio vertice. Tra le tante vittorie personali finora raggiunte, c'è la condanna contro il congolese Thomas Lubunga, avvenuta grazie alle testimonianze di decine di piccoli costretti ad arruolarsi nell'esercito. Inizierà il suo mandato con due importanti casi: portare Saif al-Islam Gheddafi, figlio dell'ex leader libico, di fronte alla giustizia e vigilare durante il primo processo a Laurent Gbagbo, ex presidente della Costa d'Avorio. Fatou Bensouda, nata in Gambia nel 1961 da una famiglia musulmana, ha studiato presso l'Università di Ife in Nigeria, attraverso le Nazioni Unite a Malta, International Maritime Law Institute. Madre di tre figli, ritornata in Gambia, ha lavorato per circa 20 anni come direttrice dell'ufficio del pubblico ministero e come procuratore generale, conquistando la stima di molti per la sua grande indipendenza nel lavoro e il suo merito. La sua carriera internazionale ha inizio come consulente legale al Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, per il quale si occupa soprattutto dei responsabili del genocidio del 1994. Nel 2004 entra a far parte della Corte Penale Internazionale come sostituto procuratore e come vice di Luis Moreno Ocampo. Anche per questa settimana è tutto. Da Lucia Capparrucci un saluto. L'augurio di passare una bella estate, al di là se in vacanza o meno, di cogliere l'occasione di questi mesi estivi per leggere magari più del solito, visto che i televisori scaldano e scaldano un sacco. E niente, ci rivediamo a settembre-ottobre. Un saluto e l'augurio di frenetiche letture. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Capparrucci.